prima di tutto dirò che la nuova schedina del Totip è uno scandalo. Ma per farmi capire fino in fondo, ho bisogno di prenderla un po' alla lontana. Umberto Maturana, in Autocoscienza e Realtà, dice che un sistema è deterministico quando tutti i suoi cambiamenti sono cambiamenti strutturali che sorgono dal funzionamento delle proprietà dei suoi componenti nelle loro interazioni, e non attraverso processi istruttivi nei quali un agente esterno determina quello che avverrà in esso. Non è una definizione chiarissima e precisissima, perché non mette bene in evidenza che comunque il criterio per dividere un interno da un esterno tocca a noi, e dunque in ultima analisi un sistema di per sé non è né deterministico né probabilistico, ma diviene o l'uno o l'altro a seconda di come lo consideriamo. È per questo d'altronde che la nostra vita quotidiana scorre perennemente fra le due alternative, o l'una o l'altra, un po' dell'una, un po' dell'altra, a seconda delle occasioni. Se incontro il mio vicino di casa in centro, applico uno schema probabilistico, almeno fino a che non ho motivi di sospettare che lui mi abbia seguito per controllare se per caso non mi incontrassi con sua moglie. Ci sono giorni particolarmente neri, facciamo un altro esempio, che se prima vedo partirmi sotto il naso il tram numero 19 e cercando di raggiungere 200 metri più avanti l'autobus mi vedo partire anche la 61, comincio a pensare che sia in atto una congiura contro di me e contro le mie esigenze di essere puntuale all'appuntamento. In certe situazioni, insomma, adottiamo un atteggiamento deterministico, in altre un atteggiamento probabilistico, e a volte basta che cambi l'umore perché da un atteggiamento si passi all'altro. La pallina della roulette, almeno fino a quando non becco il croupier a trafficare con qualche marchingegno, è il tipico esempio di comportamento probabilistico. La palla da biliardo, indirizzata a colpirne un'altra e così via, è il tipico esempio di un comportamento deterministico. Ovvio poi che ci siano situazioni in cui assumere un atteggiamento deterministico è piuttosto difficile. Se ho dei mucchietti di atomi radioattivi,